Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, nelle settimane scorse abbiamo parlato prima della situazione di Milano negli anni 70, in particolare del Partito Comunista in quella città, con il libro di Ludovico Festa, poi con il libro di Paolo Morando abbiamo affrontato gli anni 80. Completiamo l'escursus in quel periodo storico parlando soprattutto di Partito Comunista negli anni 70 e 80 e soprattutto nel periodo berlingueriano. Lo facciamo grazie al libro di un giornalista che ha avuto un'importante esperienza politica in Lombardia e a Milano, socialista, Ugo Finetti. Il libro si intitola Botteghe Oscure, il PC di Berlinguer e Napolitano, è pubblicato da Edizioni Ares, 322 pagine, 15 euro. Questa è una ricostruzione molto documentata della storia di quegli anni del Partito Comunista, per verificare soprattutto se il partito abbia privilegiato davvero, come alcuni storici dicono, la strategia dell'autonomia rispetto all'Unione Sovietica di allora e al Movimento Comunista Internazionale, ovvero se nel partito fosse prevalso il senso di appartenenza. Era una dialettica questa presente anche all'interno del Partito Comunista, che non era affatto monolitico, ma era squassato da differenze di opinioni che a un certo punto trovarono espressione nello scontro appunto tra Berlinguer e Amendola, nel quale il primo, il segretario, ebbe la meglio, costringendo il secondo, Napolitano, a lasciare agli inizi degli anni Ottanta la segreteria del partito. Dietro il sipario del centralismo democratico, scrive Finetti, esisteva un altro partito comunista. E allora sentiamo dall'autore che cosa contenesse quest'altro partito comunista. Buonasera Ugo Finetti. Buonasera. Ugo Finetti, questo suo libro è una storia del Partito Comunista, non soltanto di Berlinguer, ma quale fu l'impronta che quel segretario diede al PC? Ci sono degli aspetti positivi. Secondo me l'aspetto più positivo è che ha portato il Partito Comunista a misurarsi con un'area di governo negli anni 70. L'altro aspetto positivo è che è stato il leader politico che ha preso maggiormente le distanze dall'Unione Sovietica, a cominciare anche dai finanziamenti che ha sostituito con finanziamenti italiani. Questi sono gli aspetti positivi, tenendo conto che però il perimetro ideale era quello comunque del comunismo, cioè Berlinguer puntava comunque a far fuoriuscire l'Italia dal sistema capitalistico e a una contrapposizione al sistema occidentale che considerava imperialista. Quindi anticapitalismo e antiimperialismo erano i dati di fondo. Fin dalla copertina c'è una contrapposizione con Giorgio Napolitano. Che cosa rappresentò Napolitano e qual era il suo ruolo all'inizio, soprattutto quando era ancora forte la presenza di Amendola nel Partito Comunista, che era il leader un po' della destra, diciamo? Certo. Sì, ma guardi, la posizione della destra comunista è stata quella di poter ancorare maggiormente il Partito Comunista nella realtà italiana. Certo che fu sempre minoritaria e anche debole. Si dice che la sinistra comunista, quella di Pietro Ingrao, era libertaria. Non è che era libertaria, era che Ingrao faceva, quando si trovava in difficoltà nella direzione del vertice del PC, faceva appello a un confronto nella base comunista. Perché? Perché la base comunista era più di sinistra. La destra comunista nel confronto di base tra i militanti era molto in difficoltà. Basti pensare che ancora nel 1982, quindi due anni prima della scomparsa, Berlinguer, dopo aver aver preso maggiormente le distanze dall'Unione Sovietica, esalta con Alberto Moravia la base staliniana del PC, e cioè esalta la base staliniana più a sinistra, che dice fornita di una robusta coscienza anticapitalistica, bussola e stimolo della nostra elaborazione e della nostra condotta pratica, cioè c'è questo fondamento fortemente anticapitalista e antiimperialista, che è una distorsione della visione dell'Occidente. E poi c'era il dogma dell'unità interna. Ma questo è il fatto, secondo me, fondamentale. Nella lettura di questi verbali che ho fatto all'Istituto Gramsci, ci troviamo calati nel Partito Comunista nella Guerra Fredda. Ora, la Guerra Fredda in Italia è stata un po' sui generis, perché l'antifascismo ha consentito, richiamo alla resistenza, ha consentito al Partito Comunista di essere ben presente a livello istituzionale, giustamente, ma d'altra parte il Partito Comunista è rimasto un partito molto arroccato, cioè faccio un esempio. Io inizio il libro con tutta la direzione che è dedicata al fatto che Napolitano viene messo sotto accusa, processato dalle 10 del mattino fino alle 2 e mezzo di notte, quindi escluso dalla segreteria nazionale, perché in un articolo ha preso le distanze da Berlinguer, cioè sono cose che oggi sembrano molto, diciamo, vigliose, incomprensibili, ma certamente nel Partito Comunista c'era un problema di segretezza molto forte, di unità di facciata, e quindi diciamo che la libertà e la verità erano sottovalutate. In quello scontro, per difendersi, in Napolitano a un certo punto si rifà Togliatti addirittura. Sì, si rifà a Togliatti perché Togliatti era un politico molto realista e quindi vedeva la necessità di analizzare bene la realtà italiana, e soprattutto era per una politica di infiltrazione unitaria del Partito Comunista. Cosa fa Berlinguer quando radicalizza le posizioni? Non ha una lettura adeguata della realtà italiana, ha una lettura come se la realtà italiana negli anni Ottanta potesse precipitare in un catastrofismo del capitalismo, cioè Berlinguer ha una visione catastrofica del capitalismo, mentre Napolitano avverte che invece c'è uno sviluppo positivo. E dall'altra parte il nodo di fondo della contrapposizione tra Berlinguer e Napolitano riguarda il giudizio sul socialismo democratico e occidentale, mentre Napolitano ha un atteggiamento di dialogo, di colloquio con le socialdemocrazie europee, Berlinguer è molto chiuso, dà un giudizio fortemente negativo, non solo di Craxi, ma dà un giudizio negativo dei leader socialdemocratici. Faccio un esempio per concludere, ma nel 1983, quando gli chiedono qual è il leader politico a cui si sente maggiormente vicino, non risponde Olaf Palme, la socialdemocrazia svedese, o Willy Brandt, la socialdemocrazia tedesca, risponde: ma un tempo avrei detto Cimin o Tito, oggi direi Kadar. Kadar era il dittatore ungherese in quel momento, che era stato portato al vertice dell'Ungheria dai carri armati nel 1956, dai carri armati sovietici. Questo scontro col Partito Socialista prende molte delle pagine del suo libro. Ecco, lei che il Partito Socialista l'ha conosciuto bene, si è sentito equanime nel descrivere questo rapporto? Ma io direi equanime, nessuno può giudicare se stesso, equanime nel senso che ho rivisto il giudizio sul compromesso storico. Direi che la stagione più positiva di Berlinguer è stata negli anni 70, che di fronte a un'Italia che era alle prese con l'emergenza economica e il terrorismo, il PC di Berlinguer ha svolto una posizione positiva, mentre i socialisti avevano una politica disordinata in quegli anni. Quindi ho un atteggiamento molto di rispetto nei confronti di Berlinguer. Berlinguer ha fatto positivo quella vicenda di governabilità negli anni 70 e la presa di distanza maggiore che è stata fatta dai comunisti nei confronti dell'Unione Sovietica. Dopo di lui sia Natta che Occhetto hanno riappiccicato il PC all'Unione Sovietica. Ma questo aspetto del Partito Comunista che matura una cultura di governo, come si spiega poi col successivo catastrofismo di cui lei parla? Perché Berlinguer non riuscì a mantenere ferma la barra su quella rotta? Perché comunque per Berlinguer il perimetro era quello comunista, e cioè era la fuoriuscita dal capitalismo. Non accettava una logica di economia di mercato. La differenza tra Berlinguer e Craxi, che poi non era soltanto Berlinguer e Craxi, Berlinguer e il socialismo europeo, era l'accettazione dell'economia di mercato, e su questo Berlinguer era intransigente. Berlinguer anche dopo nella crisi dei rapporti che ha avuto con l'Unione Sovietica, quello che guardava al Sud America, non ha mai fatto dei viaggi nei paesi dove c'erano i socialdemocratici al governo, non era quello gli interlocutori che considerava. Nel libro lei rimette un po' in discussione la figura tradizionale, almeno così è come è passata, di Aldo Moro, che lei precisa non fu soltanto il traghettatore dei comunisti al governo. Ma dunque la tesi di Aldo Moro, scusi il termine, Aldo Moro e Berlinguer si sarebbero sposati, avrebbero fatto tanti bei bambini, è una tesi assurda. Aldo Moro era un leader della Democrazia Cristiana, voleva l'unità della Democrazia Cristiana e ha sempre detto a Berlinguer: questo è un passaggio di transizione, ma non c'è una prospettiva di fare il governo insieme. E questo è il dato di fondo. Del resto, quando Moro è stato rapito, era il momento di massima tensione con Berlinguer, perché Berlinguer era furibondo, e questo lo dicono in Grao, Chiaramonte, quanti erano vicini a lui, nel momento in cui Moro aveva fatto una lista dei ministri tenendo unita la Democrazia Cristiana. Non c'era in Moro la prospettiva di un governo con il Partito Comunista. Grazie a Ugo Finetti, autore di Botteghe Oscure, il PC di Berlinguer e Napolitano. Buona serata. Grazie, buona serata. E a questo punto interrompiamo per un attimo, ci sentiamo tra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il prossimo 23 aprile cade il 400° anniversario della morte di due giganti della letteratura occidentale, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Anzi, proprio questa coincidenza ha fatto sì che questa data, il 23 aprile, sia stata proclamata giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. In realtà la coincidenza fa molto discutere, non è pacifica. Intanto perché quando morì Shakespeare, nel 1616, appunto, l'Inghilterra non aveva ancora adottato il calendario gregoriano, era regolato dal calendario giuliano, e quindi quel 23 aprile in realtà corrispondeva al 3 maggio. E di Cervantes alcuni studiosi osservano che sarebbe morto in realtà il 22 aprile, il 23 aprile sarebbe stato sepolto. Comunque noi rispettiamo la tradizione e ricordiamo questi straordinari protagonisti della letteratura mondiale. Su Cervantes segnalo l'omonima biografia di Bruno Frank, che è uno scrittore tedesco morto 70 anni fa, pubblicata da Castelvecchi, 238 pagine, 17,50 euro, e tradotto da Lavinia Mazzucchetti. Questa di Frank in realtà è un romanzo su un personaggio che ebbe una vita avventurosa, che non gli diede la fama in vita e che forse contribuisce a spiegare alcune pagine che troviamo nel suo capolavoro, cioè il Don Chisciotte. Sentiamo per esempio dal libro di Frank l'origine appunto di questo capolavoro. No, il suo cavaliere non era un giovane leggiadro, un roseo cherubino. Era un buon vecchio pieno di acciacchi, reso alquanto bizzarro dai fantasmi svaniti. Non sarebbe stata una delizia farlo partire in cerca d'avventure, con la ferma fede che esistesse ancora all'epoca della cavalleria? Quanti scherzi amari e fantastici se avesse attraversato la Spagna odierna su un'ossuta cavalcatura. Per esempio la povera regione della Mancia, in cui i contadini avevano in testa i prezzi delle uova. Se avesse creduto di vedere dovunque onorifiche tenzoni e innocenti da salvare, pazzo commovente, ostinato a cogliere in eterno quel che in eterno sfugge e svanisce, che dovunque raccoglie busse, precipita in terra, viene rialzato e continua per la sua strada, inaccessibile ai disinganni col rigido sguardo della vecchiaia, rivolto verso l'eterno balenio dell'illusione. Un titolo recentemente pubblicato in Italia di Cervantes è un racconto, la storia di Cantuccio e Taglierino, pubblicato da Mimesis, 106 pagine, 8 euro, curato da Walter Ghia. Questo è uno scritto composto tra il 1601 e il 1605, un racconto molto famoso di Cervantes, su due giovani malviventi, il cui nome spagnolo è Rinconete, che fa riferimento alla parola spagnola che evoca l'agile di nascosto, l'inganno, e Cortadillo, che invece evoca la forbice, ossia l'attività del tagliaborse. Questi due malviventi operano a Siviglia, una città che Cervantes conosceva molto bene perché ci aveva vissuto qualche anno prima ed era stato anzi in imprigionato proprio nei mesi della prigionia a Siviglia, pare che Cervantes abbia concepito il Don Chisciotte. In questa città, tornando al racconto, regna una sorta di cosca malavitosa con la quale i due giovani malviventi dovranno fare i conti. Insomma, questo famoso racconto ci descrive la malavita e soprattutto il sistema giudiziario spagnolo dell'epoca di Cervantes. Su Shakespeare segnalo invece il libro di uno scrittore inglese dell'Ottocento, William Hazlitt, di cui Sellerio ripropone i personaggi del teatro di Shakespeare, 314 pagine, 18 euro, tradotto da Alfonso Gerani e Francesco Romeo. Questo è il libro di Hazlitt che ebbe forse maggiore successo, e del 1817 suscitò un'enorme polemica perché, come osserva Geraci nella postfazione, la lettura che Hazlitt diede dei personaggi shakespeariani era una lettura soprattutto politica, avversa ai conservatori che allora erano al potere in Inghilterra. In realtà, per molti aspetti, questo libro di Hazlitt fece epoca e contribuirà a consolidare le interpretazioni su molti aspetti dell'opera del grande drammaturgo. Sentite per esempio cosa dice Hazlitt di Coriolano in uno dei capitoli che più fece infuriare i conservatori a proposito di una tragedia di cui effettivamente la lettura politica è molto diffusa. In questo dramma Shakespeare si dimostrò assai competente di storia e di affari di Stato. Coriolano è un autentico emporio di temi politici. Chi lo studia può risparmiarsi la fatica di leggere le riflessioni sulla rivoluzione in Francia di Burke o i diritti dell'uomo di Paine, o ancora i dibattiti svoltisi in entrambe le camere del Parlamento a partire dalla Rivoluzione francese, se non a partire dalla nostra. Le argomentazioni a favore e contro l'aristocrazia e la democrazia, intorno ai privilegi dei pochi e alle rivendicazioni dei molti, alla libertà e alla schiavitù, al potere e all'abuso che se ne fa, alla pace e alla guerra, sono qui trattati magistralmente con il vigore di un poeta e l'acutezza di un filosofo. Shakespeare, peraltro, sembra avere un debole per il versante dispotico della contesa, forse a causa di una certa vergogna nei confronti delle proprie origini, e non perdere occasione di dare la baia al popolino. Ciò che dice di quest'ultimo è ben vero. Ciò che dice di quanti gli sono socialmente superiori è altrettanto vero, sebbene vi si soffermi meno a lungo. Ed Edgar Allan Poe, il grande scrittore americano, spiega in poche parole, in una nota che apre il libro, il fascino eterno di Shakespeare, capace, scrive, di sbalorditiva capacità di identificazione con l'umanità tutta, ragione fondamentale del magico ascendente che egli esercita. Un altro classico che legge Shakespeare è Victor Hugo. Nella biografia pubblicata da Castelvecchi, 262 pagine, 22 euro, è tradotta da Nilo Pucci. Questa è un'opera del 1864, considerata essa stessa uno dei capolavori della letteratura romantica, che di Shakespeare traccia non solo la biografia ma anche il percorso letterario e quello della sua fortuna critica. Un'opera questa, osserva Emilio Cecchi, che è un grande letterato italiano, e fa queste osservazioni Cecchi in una nota conclusiva al libro, una nota che pure non lesina a molte critiche a Hugo e a questo scritto, un'opera tuttavia che è capace di dare, scrive Cecchi, un godimento di poesia non debole né mediocre. Gremese pubblica invece un libro di un coetaneo di Hazlitt, Charles Lamb, che scrisse questo libro con la sorella Mary, si intitola Racconti da Shakespeare, 222 pagine, 15,90 euro, ed è tradotto da Dario Mazzone. Questo è un libro del 1807, originariamente destinato ai giovani, soprattutto alle fanciulle, ma nell'introduzione i due autori osservano che ai nostri giorni, e credo che lo possiamo sottoscrivere anche noi, ai nostri giorni, dicevo, esistono anche molti adulti che, per mancanza di allenamento, provano difficoltà nel leggere le opere shakespeariane, che pure apprezzano vivamente quando vengono rappresentate in teatro. È sempre gremese. Pubblica Schermi Shakespeariani, è curato da Ilaria Floreano, che contiene, anzi aggiorna, il catalogo dei film ispirati alle opere di Shakespeare. Il volume costa 19,50 euro. E segnalo, a proposito di iniziative shakespeariane, che il 19-26 aprile si svolgono gli ultimi due appuntamenti di un ciclo milanese, giunto alla terza edizione, che si intitola Shakespeare Economista e che si tiene presso il chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro di Milano alle 17:30. appuntamento. Il primo appuntamento è dedicato appunto al Coriolano e il secondo appuntamento è dedicato a Macbeth. Poi ci sono molte iniziative in tutto il mondo organizzate dal British Council, anche in Italia ovviamente, e a Stratford upon Avon, cioè il paese, la città di Shakespeare, sono stati presentati nuovi percorsi per i visitatori e molte manifestazioni. In particolare proprio il 23 ci sarà la Birthday Celebration con una parata musicale di suonatori jazz del New Orleans. E iniziative per questo anniversario quasi fatidico sono previste in 110 paesi. Se volete consultare il programma andate sul sito Shakespeare Lives. Per quanto riguarda invece Cervantes, ricordo che c'è una manifestazione a Prato, la Cervantiana, con un mese di incontri su Cervantes che si concluderà il 28 aprile, mentre naturalmente la maggior parte delle iniziative sono in Spagna, in particolare a Madrid, dove è aperta fino al 22 di maggio una mostra su Cervantes che si svolge alla Biblioteca Nazionale. A proposito del piccolo teatro, sul quale confesso di avere qualche interesse, il 19 aprile iniziano a Milano le rappresentazioni dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, che fu messa in scena per la prima volta 60 anni fa, nel 1956, in Italia ovviamente, in uno di quelli che fu uno degli spettacoli più importanti di Giorgio Strehler. E adesso questo spettacolo torna con la regia di Daniele Michelietto e in questa occasione sul libro del direttore di produzione del piccolo teatro, Alberto Benedetto, Brecht e il piccolo teatro, una questione di diritti, è pubblicato da Mimesis, 194 pagine, 18 euro. Questo libro rievoca il rapporto tra il commediografo tedesco, il piccolo teatro, e il direttore d'allora, nonché fondatore del teatro, Paolo Grassi, al quale assieme a Strehler lo scrittore tedesco avrebbe voluto addirittura concedere l'esclusiva per l'Europa di tutte le sue opere, tale era la stima per il teatro milanese, la stima che questo teatro si era saputo conquistare appena 9 anni dalla fondazione anche a livello internazionale. E nel libro troviamo appunto la testimonianza di questo rapporto, complicato anche dalla presenza appunto di un altro grande personaggio come Strehler, che fa parte ormai della storia del teatro italiano, perché, come osserva Sergio Escobar nell'introduzione al libro, e fu proprio da questo rapporto che nacque l'autentica natura non burocraticamente intesa del piccolo teatro. E a questo punto il confettino. Confettino shakespeariano naturalmente, anche se con libri non recentissimi. Vi segnalo due titoli di Curcio: Il sogno di una notte di mezz'estate e Romeo e Giulietta, 32 pagine entrambi, 10,90 euro, curati da Giulia Tomai. Poi c'è un'edizione Lapis, La tempesta, 32 pagine, 14,50 euro, una di Feltrinelli, Il racconto d'inverno, 112 pagine, 13,60 euro, una di Salani, L'Amleto, 40 pagine, 13,60 euro, e infine una di Mondadori, Il Romeo e Giulietta ancora, 220 pagine, 9,50 euro. Mentre l'edizione per ragazzi più recente di Don Chisciotte è quella della Spiga Edizioni, 176 pagine, 7,70 euro. La stessa casa editrice pubblica anche Le più belle opere di Shakespeare, raccontate ai ragazzi, 208 pagine, 8,80 euro. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carmelo Lauricelli regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.